Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Non sono più le luminarie nelle strade l'indizio numero uno a dirci che la corsa ai regali di Natale è già iniziata, sono le promozioni online e c'è chi punta sugli acquisti first minute. Regali, ma non solo. Natale vuol dire anche viaggi e spostamenti vari tra ritrovi familiari e vacanze. Il consiglio in questo caso è quello di monitorare e ottimizzare l'acquisto per il vostro biglietto ferroviario. Scopriremo come tra pochissimo. Focus sui trend dedicato infine alla subscription economy, l'economia della sottoscrizione che ci consente di avere accesso a prodotti e servizi come, quando e dove vogliamo attraverso un abbonamento. Quota fissa e fornitura mensile, siete pronti al Netflix della moda, del cibo, del viaggio, dello sport, dei fiori, eccetera, eccetera. Mi scusi signore? Sì? Questi sono nostri. Sono vostri? E come mai? Esatto. Insomma, erano ancora lì appesi, buoni buoni, con il talloncino del prezzo. Ne stavamo appunto discutendo, capisce? Si dà il caso. Sa cosa le dico? Voi continuate pure a discuterne mentre io intanto li pago. Stia calmo, stia calmo. 5 giorni prima di Natale in un grande magazzino di New York, questo mi chiede di stare calmo. Sì, dei consumi punta sul gioco d'anticipo per gli acquisti natalizi. Lo testimonia il successo crescente anche in Italia di Black Friday e Cyber Monday, quest'anno il 24 e 27 novembre. Ma anche quest'anno gli italiani che si ridurranno all'ultimo ad acquistare i regali saranno quasi 5 milioni, rivela una ricerca commissionata da eBay a Kantar TNS. Ricerca che stima 44 milioni di regali last minute mal pensati per circa 1 miliardo di euro di spesa. Con un'iniziativa che si chiude oggi, eBay invita tutti a cambiare abitudini puntando sui regali first minute. Un'iniziativa promozionale certamente, che racconta però qualcosa di più di noi consumatori. Irina Pavlova. Noi sappiamo che un regalo è un atto d'amore e in quanto tale ha bisogno di cura e di giusto tempo. Proprio per questo stiamo lanciando la sfida contro la consuetudine di ridursi sempre all'ultimo minuto. No last minute e sì first minute. Più della metà degli italiani acquisteranno i regali solo a dicembre, dice la vostra ricerca. Sì. È vero, questo cosa vuol dire? Vuol dire che saranno quasi 44 milioni di regali, perché un italiano medio pensa di fare circa 9 regali, e quindi saranno circa 44 milioni di regali fatti in modo frettoloso e magari non molto pensati, proprio perché saranno ridotti all'ultimo, quasi una persona su due inizierà a muoversi per lo shopping solo a partire dal mese di dicembre e ben 5 milioni nell'ultima settimana. Vediamo la maggior propensione, diciamo, la maggior tendenza al last minute da parte degli uomini, perché probabilmente le donne risultano un po' più organizzate, lo conosciamo, tra i mille impegni che abbiamo dobbiamo anche cercare di organizzare in tempo la lista della spesa per i regali, e rispetto all'età diciamo risultano quelli più pianificatori gli adulti tra 35 e 54 anni, mentre un po' più giovani si riducono poi all'ultimo perché probabilmente sono presi dai mille impegni e sanno che poi all'ultimo secondo devono cercare qualcosa. La vostra ricerca ci dice anche chi è il primo della lista per i regali. Il primo della lista sono sempre i partner principalmente, ma anche i figli, ok? Sono queste due categorie di persone a cui gli italiani pensano in primis a fare i regali, ma questo non sempre si trasforma poi nell'effettivamente essere i primi per cui vengono acquistati questi regali. Abbiamo detto che il mondo dei consumi comunque si sta attrezzando per farci arrivare preparati al Natale, lo testimoniano anche le iniziative che abbiamo importato dal mondo anglosassone come il Black Friday e il Cyber Monday, che ormai anche in Italia sono conosciute, lo rivela la vostra ricerca. A tutti gli effetti ormai è diventato anche un fenomeno italiano, sempre la ricerca ci conferma che oltre il 70% degli italiani conoscono, ne hanno sentito parlare di questo fenomeno, e ben 40%, il 40%, quindi se dobbiamo dare il numero 12 milioni e mezzo degli italiani, delle intervistate, affermano che quest'anno faranno i propri regali in occasione del Black Friday, tant'è che su eBay non sarà proprio Black Friday, sarà proprio Cyber Week, l'intera settimana per cercare di venire incontro a queste esigenze pensa di portarsi avanti con i regali e con gli sconti fino al 60%, così come succede nel mondo anche offline adesso. Tutti si stanno attrezzando per il Black Friday. Perdinci, è già l'ora! Scusa, Harry, ti devo lasciare. Silente vorrà la sua... mi vorrà vedere. Allora, il tuo treno parte tra 10 minuti. Questo è il tuo biglietto. Tienitelo stretto, Harry, è molto importante. Tienitelo stretto. Da Londra a Hogwarts. Binario 9 e 3 quarti. Ma Hagrid, deve esserci un errore. Qui dice binario 9 e 3 quarti. Ma non esiste. Vero? Sempre più competitivo in termini di tempi e di costi e decisamente più ecologico, il treno guadagna posizioni nelle preferenze per gli spostamenti anche dei più giovani. Lo testimonia il ritorno di fiamma per una formula come l'Interrail, così come le nuove offerte di treni super lusso, oppure la riscoperta di tratte storiche dimenticate. E poi si moltiplicano gli strumenti digitali che ci semplificano la vita dal punto di vista delle prenotazioni. Come Trainline, una sorta di biglietteria unica che permette di confrontare e acquistare i biglietti in 24 paesi europei, tra cui l'Italia. In previsione del Natale, anche la mobilità gioca d'anticipo, ha creato il bigliettometro, un monitoraggio continuo del costo dei biglietti del treno per viaggiare venerdì 22 dicembre, la giornata clou delle festività natalizie. Benedetto Levi, country manager di Trainline per l'Italia. Trainline è la piattaforma oggi leader nel mondo nella vendita online di biglietti ferroviari. Siamo presenti in 24 paesi europei e vendiamo i biglietti di 87 compagnie ferroviarie, tra cui naturalmente per l'Italia tutti i biglietti Trenitalia e Italo, alta velocità, regionali e così anche appunto in questi altri 24 paesi, tra cui Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, eccetera. Abbiamo ovviamente un sito internet, un sito mobile, delle app per iOS, per Android, per Apple Watch, quindi siamo presenti davvero su tutte le piattaforme con l'obiettivo di semplificare al massimo e velocizzare al massimo l'acquisto dei biglietti ferroviari e di permettere ai clienti di ottenere sempre il miglior prezzo. Come funziona? Io voglio recarmi, poniamo, per un viaggio all'estero in cui combino magari una tratta italiana e una tratta internazionale. Che cosa devo fare? Basta inserire sull'app o sul sito la stazione di partenza, la stazione di arrivo, la data e l'orario, e il nostro motore di itinerari calcola automaticamente il miglior tragitto per andare quindi dal punto A al punto B, combinando tutti i vari operatori e permettendo di trovare le migliori tariffe, quindi i biglietti meno cari, o a seconda delle esigenze del cliente si può scegliere biglietti più flessibili con condizioni di cambio, annullamento più vantaggiose, e quindi i biglietti saranno un po' più cari. Si paga tutto in un'unica transazione, anche se ci fossero biglietti di 4 compagnie ferroviarie. Uno può trovare un viaggio da Napoli a Londra sulla nostra piattaforma, naturalmente con alcuni cambi, e si ottiene il biglietto direttamente sul proprio smartphone da presentare al controllore. Per Natale voi avete pensato a un'iniziativa molto particolare. Abbiamo creato quello che chiamiamo il bigliettometro di Natale. Come la maggior parte delle persone sanno, con più anticipo si acquista un biglietto e più è possibile trovare prezzi vantaggiosi. Quindi abbiamo pensato di creare uno strumento e un sito per mostrare sulle principali tratte che gli italiani prenderanno per tornare a casa a Natale il prezzo ad oggi, quindi prenotando con, oggi siamo circa un mese e mezzo da Natale, o prenotando all'ultimo minuto, e far vedere effettivamente nero su bianco qual è il risparmio che si otterrebbe prenotando in anticipo su queste principali rotte, e poi da lì ovviamente è possibile andare sulla nostra piattaforma e cercare la propria rotta nel caso non fosse tra queste, tra le principali città italiane. E i valori vengono aggiornati ogni giorno, di qui al 22, che è il giorno clou che avete scelto appunto. Esattamente, ogni giorno andiamo automaticamente a vedere quali sono i prezzi migliori ancora disponibili e andiamo ad aggiornare questa pagina, proprio con lo scopo di rendere semplice e chiara l'offerta, i prezzi, i vantaggi di prenotare in anticipo per viaggiare in treno nel miglior modo possibile. Non solo Netflix e Spotify, dall'intrattenimento la formula dell'abbonamento vince in tutti i settori, anche i più impensabili. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Essere e Avere. La subscription economy, economia della sottoscrizione, è un modello di consumo basato sull'abbonamento. Un modello classico, potenziato però dalle piattaforme tecnologiche, che ne hanno ampliato i settori di utilizzo e lo hanno fatto diventare un fenomeno. Permette agli utenti di avere accesso a un prodotto o a un servizio dove, come e quando vogliono. Con questo modello, il focus si sposta dal prodotto, quindi dalla transazione, alla sottoscrizione, cioè alla creazione di valore nel tempo. Focus sui trend. È la tendenza di consumo tra le più importanti del momento, secondo molti esperti. Tutto il mondo dei consumi, sempre meno propenso al possesso dei beni, si muoverà in quella direzione: quota fissa mensile e relativa fornitura. Dallo streaming di musica e video al car sharing, fino poi al cibo, all'abbigliamento, ai viaggi aerei persino. Ormai non ci sono settori che non stiano sperimentando la formula della sottoscrizione, dell'abbonamento. Lo testimoniano i casi che ha raccolto per noi Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Allora, il caso più eclatante fu qualche tempo fa quello di Dollar Shave Club, startup poi acquisita da Unilever per $1 miliardo, abbonamenti mensili per la fornitura di rasoi da barba, un caso che ha rivoluzionato un intero mercato. Noi da dove iniziamo, Isabella? Dall'abbigliamento, che è interessante. Un caso in particolare vorrei parlarvi di Vigga, che è una startup danese. Si chiama così dal nome di Vigga Svensson, che l'ha ideata insieme al marito Peter. Propone il noleggio di abiti per bambini piccoli, cioè neonati da 0 fino ai 3 anni, e ha quest'idea bellissima, secondo noi, di voler rendere più sostenibile l'abbigliamento infantile, perché è proprio un settore in cui i vestitini vengono utilizzati pochissimo e poi diventano piccoli. Ecco, Vigga ha creato una sorta di comunità alla quale ci si può iscrivere dal sito o con un'app, e poi a ogni membro viene data una borsa molto bella, tra l'altro curata esteticamente a pois blu, al cui interno ci sono gli indumenti per i bambini che si è deciso di noleggiare, e si tratta di vestitini realizzati in modo eco-friendly proprio dall'azienda, perché Vigga ha lavorato per 10 anni nell'industria della moda etica, realizzando appunto vestiti ecologici per i bambini, e quindi c'è anche il know-how produttivo. Questa borsa, che può contenere da un minimo di 8 a un massimo di 24 pezzi, ha un prezzo medio che si aggira intorno ai 48 euro mensili, perché è appunto un abbonamento mensile per, diciamo, una media di 16 pezzi, quindi, che i genitori possono utilizzare finché servono. Poi, quando diventano i vestitini troppo piccoli, possono riconsegnarli, e Vig si occupa di controllarli, lavarli, igienizzarli e poi rimetterli in circolo per una nuova vita. E ogni capo, hanno calcolato, che raggiunge fino a 5 diverse famiglie e viene usato anche 150 volte, insomma, è un bel risultato, ecco. E un altro caso interessante, sempre legato all'abbigliamento ma femminile, è quello, per esempio, di Rent the Runaway americano, che è un abbonamento mensile, questo più costoso, all'incirca, diciamo, $160, e che permette di noleggiare abiti e accessori da donna costosi, proprio mi verrebbe da dire di lusso. Vengono noleggiati 4 per volta, però con una libertà, proprio un servizio unlimited, di cambiarli tutte le volte che si vuole. È nato anche questo qualche anno fa come un servizio che proponeva, no, il noleggio classico di capi bellissimi per occasioni speciali, non so, devo andare a un matrimonio, una serata di gala. Poi però si è agganciato a questa nuova logica di abbonamento continuativo e si è specializzato in capi di alta qualità, ma per un uso più regolare. E così offre una varietà che di solito non ci si può permettere, diciamo, con i capi e gli accessori di questo livello. Alto tasso di ricambio, dunque, per tenere sempre aggiornato il nostro armadio, un lusso. Sì, un lusso, però posso aggiungere che questo tipo di servizio di subscription stanno crescendo moltissimo, soprattutto in America. Ce ne sono tanti esempi, per esempio The Black Tux, che noleggia abiti eleganti per uomo, o anche Winnie B, che è dedicato alle taglie forti da donna, o le Tot, che è sempre come Rent e Runaway, ma diciamo più per la quotidianità, perché la quota mensile è più bassa, più o meno $60, e dentro al pacco c'è un outfit completo, quindi 3 capi di abbigliamento, 2 accessori, e che possono essere indossati anche questi senza limiti di tempo e poi restituiti quando si vuole cambiare il proprio look. La formula con Spotify e Netflix è partita dal mondo dell'intrattenimento. Il prossimo caso ha a che fare proprio con questo settore. È Power Pass, una proposta che viene lanciata proprio questo mese, il 19, da The Game Shop, che è diciamo il maggior retailer mondiale di videogiochi, anche usati naturalmente, e consiste in un abbonamento, anche questo, che per una spesa di $60 permette di noleggiare qualsiasi videogame usato, presente in un punto vendita, quindi diciamo non l'online, un gioco per volta, però senza alcun limite di cambi, per un periodo di 6 mesi. Ecco, quindi cioè ogni volta che si restituisce un gioco se ne può prendere un altro. Sicuramente è una nuova modalità di business che nasce proprio in risposta alla crescita del mercato digitale, no? E proprio come hai detto tu, ricordano da vicino le logiche dello streaming dei contenuti multimediali. C'è chi ha pensato anche ai nostri ricordi digitali con un servizio molto particolare. Bellissimo, si chiama Chatbooks ed è un servizio in abbonamento mensile, anche questo, che però cosa fa? Riesce a creare in automatico quelli che sono i classici album delle fotografie di famiglia, no? Almeno quelli che erano per le famiglie come le mie di over 40, diciamo, che ci sono sempre stati. Adesso si possono fare effettivamente online da soli e poi stamparli, ma è un po', diciamolo, time consuming, macchinoso. Ecco, allora Chatbooks accede naturalmente con il consenso di chi lo vuole usare ai vari social personali o persino alla libreria di foto sullo smartphone e crea degli album che chiama Photobook Series mensilmente o con una periodicità, diciamo, che si può decidere, e che poi vengono recapitati direttamente a chi si abbona. Chiudiamo, Isabella, con il mondo delle automobili, che sta sperimentando le nuove formule alternative al possesso, puntando in questo caso sui servizi. È molto interessante quello che ha appena proposto Volvo Cars, che insieme a, diciamo, al lancio della sua nuova XC40, che è un SUV compatto urbano, diciamo, propone un nuovo modello di accesso all'auto, perché Care by Volvo è un servizio di abbonamento biannuale e che permette appunto di godere della propria macchina senza preoccuparsi di tutte un po' le complessità che stanno intorno all'acquisto classico di un'automobile, di una vettura, ma contemporaneamente si differenzia alle forme più classiche di leasing per l'esclusività e l'ampiezza dei servizi che poi offre in abbonamento insieme all'utilizzo dell'automobile. Quindi imposte, commissioni, assicurazione sono già tutti compresi in un canone mensile, più una serie di servizi tutti gestibili in digitale, che vanno dalla possibilità di avere il rifornimento di carburante e anche l'assistenza tecnica fatte direttamente con qualcuno che viene a ritirare la tua auto e poi te la riconsegna sotto casa, o addirittura per i paesi in cui è già attivo un servizio di recapito sulla tua auto degli acquisti che hai fatto online, quindi proprio il massimo della comodità. E per di più si può decidere di condividere la propria auto con i familiari e con gli amici attraverso una particolare tecnologia di chiave digitale creata apposta, un car sharing però privato, no? Più unito, più legato alla famiglia. Un car sharing di vicinato, potremmo chiamarlo così. Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima. Ciao a tutti. Il consumautore. È il momento della riflessione finale in compagnia del sociologo Francesco Morace, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera Francesco, ben trovato. Grazie Maria Luisa e buonasera ai nostri radioascoltatori. Allora, questa sera partiamo dal thriller e da un maestro del genere. Partiamo da Dan Brown con il suo ultimo thriller racconto, che si chiama Origin, e ci interessa perché il principale protagonista non è Langdon, ma è l'intelligenza artificiale, è un computer che si chiama Winston e che lo aiuta a risolvere il caso. E allora mi sembrava interessante partire da questo. Quindi un romanzo in cui Dan Brown si misura con il tema attualissimo, appunto, dell'intelligenza artificiale, anche delle paure connesse, la paura per il lavoro, quindi per la disoccupazione digitale, quella che viene definita tale, addirittura le paure per il genere umano. Recentemente di nuovo Stephen Hawking ha detto: stiamo attenti perché l'intelligenza artificiale può costituire proprio un rischio, un pericolo per il genere umano. Certo, devo dire che lo fa con grande intelligenza, perché chiarisce un aspetto che poi è molto importante anche per le aziende, e cioè che l'intelligenza artificiale, e quindi Winston, è bravissimo a ricostruire il passato, a mettere in relazione fenomeni che noi non riusciamo a comprendere nella loro complessità, ma che non può progettare il futuro. E quindi da questo punto di vista forse i manager corrono più rischi degli imprenditori, e quindi in questo senso forse il modello italiano può acquisire ancora più forza, perché quello che le macchine non potranno mai fare è immaginare il futuro. Proprio in tempi di industria 4.0 si parla molto di big data, di intelligenza artificiale. C'è il rischio di perdere l'impronta più umana, quella familiare anche, che tanto contraddistingue il nostro modello imprenditoriale? Come sempre dipende molto da noi. In assoluto credo che non ci sia questo rischio se noi riusciamo a utilizzare al meglio quel potenziale in più che l'intelligenza artificiale ci può dare, e se manteniamo per noi la capacità di interpretare, perché l'informazione che hanno le macchine non è la conoscenza che possiamo avere noi. Quindi bisogna veramente trovare un modello in cui questi nuovi elementi possano insieme lavorare in modo virtuoso, e credo che se lo capiamo, senza demonizzare la tecnologia, lo possiamo fare molto bene. Grazie a Francesco Morace, grazie ad Andrea Roccabella in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.